chiunque sia, bello, brutto, cattivo, noi siamo qua, chiunque vuole entrare, i canali sono di tutti, non è che abbiamo diritto a non parlare qua perché c'è tizio, caio, c'è pugno, a me non interessa, a me chi mi saluta in radio io rispondo per educazione, chi non mi saluta vuol dire che non mi vuole salutare e quindi se ne sta dove vuole stare, a me poco mi interessa, io cerco di fare quello che mi hanno insegnato. Sono una persona grande, quindi valuto le cose da persona grande, le tronzate non mi piacciono più, quindi ho un carattere abbastanza tranquillo e sereno, non ammetto, non dico che non sono permaloso, mi posso offendere per una cosa minima, però questo è il mio carattere. Tante persone pensano di sapere, di fare quello che vogliono, però non funziona così. Ci vuole rispetto, perché uno può essere nero o può essere bianco, tu non è che ne puoi fare tutto l'erba un fascio, questo è quello che penso io, se a qualcuno le piace, se non le piace, io sempre qua sono, a te giuro un altro passaggio e poi io chiudo con la porta del campo. Ok, d'accordo, dai, allora consentitemi di fare solo una prova di 20 secondi, io ti faccio chiamata fra un po', Claudio Di Mudos, un attimino, 20 secondi di bianco, che faccio una chiamata e poi Claudio mi dà la risposta, un attimino, ok? Va bene? Claudio, mi senti? Aspetta, non mi rispondere ancora. Claudio, dimmi se mi hai ascoltato. Anche tu, Claudio Di Mudos, mi dite se mi avete ascoltato. Un attimino, che devo fare un'operazione prima di ascoltare la risposta. Ok? Anche io. Vai, Claudio. Claudio, io? Niente, sì. Ok, no, io ti ho ascoltato, non c'è problema, Giulia. Vediamo se senti Claudio Di Mudos. Ok, va bene, dai, la prova che volevo fare era quella, e allora va bene, dai. Va bene, no, non c'è problema. Vi dirò. Dunque, anzi, Claudio sicuramente mi ha già capito. Ok, qua, avanti, fai il passaggio, se devi andare a fare a buttare il cane, va bene così. Intanto anch'io sono molto stanco perché sono già le 8:20, per cui penso che sia solo questione di qualche minuto che la chiamata per la cena. Dai. Avanti Claudio, per il cane se devi andare, fai pure il passaggio e poi assolvi il tuo compito, vai. Sì, ho capito con quel tipo di radio cosa stai facendo, non c'è problema, va bene, è ottimo anche da poter fare un po' in generale quando ci sono problematiche come erano prima, ok, sì, io adesso mi preparo e porto il cane, vai, sono già le 8, quasi meno un quarto, cioè 8:20 passate, quindi vi auguro buona cena a tutti e due, saluto Gianni, Antonio Riserva, tutti quelli che sono in ascolto, vai. Ci sentiamo dopo se coincide, altrimenti buon fine serata a tutti e buona cena a tutti. A te Mudos. Ricambiato chiodo ho arrugginito, ricambiato al 100%, dai, buona cena, grazie per la chiacchierata, salutami Gianni, tuo padre, famiglia, ci sentiamo le prossime. Poi un giorno te lo voglio dire, se il numero di telefono è sempre quello che io ho, perché non lo so, io qualche volta ho provato, evidentemente non era più quello. Comunque non ha grande importanza, dai, ci sentiremo la prossima volta. Ciao Claudio di Sassari, ciao Claudio di Muro, saluti a tutti e grazie per dare il QSO. Anche per me QRT, dai, scendo anch'io per la cena, dunque tanto ormai minuto più, minuto meno, scendo giù e non se ne parla più. Ok, a presto, dai, a risentirci, ciao a tutti e due, ciao. Ok, ciao di nuovo Claudio, alle prossime, dai, salutoni ancora a tuo padre, ciao ciao. Lo faccio io il numero di Gianni, Giulio, non c'è problema, col permesso di Claudio, tranquillo. Ciao a tutti e due, a più tardi. Ok, ciao qua, buona passeggiata con Filippo, dai, ci sentiamo alle prossime, dai, ciao ciao, buonanotte e buona cena. Ciao ciao ciao, grazie a tutti e due. C'è qualcuno? Hola. Hola. Hola. Hola. Attenzione, 10, c'è qualcuno? Scappa. Ola, ola, 1, 2, 3, prova. Prova, prova. 1, 2, 3, prova, prova, prova. 1, 2, 3, prova, prova, prova, prova. 1, 2, 3. Giovanni Nappioli. Che Giovanni Lo Giordo, le sue chitarre. No, Giovanni Nappioli è più bravo. Anisona. Di Bifero di Bedi. No, era un carpentiere muratore. Bravo, se da allora erano in Tuadia che erano brave. Sogna questa cagione di casa, ti buoniamo bene di un gioco. Chi c'è una cazzuria, però me. Chi c'è roba di vino, Roba di birra. Vino, birra, chi su chi è? A quei tempi il mulattore lavorava con la bottiglia di birra tra la casarella, in vetro di me. Già lo so, Goia. Da voi, a canta sera, e gana gana, si parava per sapere da capo a terra. Minchia, per carità, quanto bevevano. E adesso non si può più fare, prima era sempre becca asciutto, erano. Sempre becco infuso, non asciutto. Lo so, Guglia, becca asciutto nel senso che era sempre, aveva le gana di bibi me, sempre gana di, sempre giuccendi erano. Allora, ciuccia qui, ciuccia là. Minchia, c'erano certi che un po' di tempo fa, adesso vabbè, hanno messo le restrizioni, mentre bevevamo al bar, mi dia una vecchia, una verna, un alicino, ogni viago da mandano ghizzo. Che schifo, aspetta che prendo il potace. Eia. Fai il passaggio, dai, ancora già è presto. E poi andiamo a vederci la TV, fritto il cenare adesso. Cappa, Dopo non c'è nessuno, vabbè che sono entrato un po' più tardi. Ha detto, ma non so se c'è che cosa, no? Invece non è così. Ti dico, Anton, silenzio stasera, un bellissimo QSO, c'è un sacco di gente, tranquilli. Veramente siamo stati benissimo. Sono contento di tutto ciò, altro non ti posso dire. No, sono contento anche io, tanto, ma cosa va casino, cioè. Va bene, cavolo. Sono contento se è andato tutto liscio. Sì, sì, sì, alla grande. Abbiamo fatto un bel QSO. Prove tecniche di trasmissione. Chi più ne ha più ne metta. Insomma, abbiamo trascorso una bella serata. Io tutta la sera entro qua e mi apro la... Oggi c'è troppo freddo, mi apro la finestra. Fumo una sigaretta dopo cena e poi me ne vado a vedere la TV. E gaiette. Capa, dai, sono contento, dai, che finalmente un po' di gojo. Sono contento. C'era molta gente entrata stasera. Io purtroppo per cause lavorative molte volte rientro tardi, cioè non posso, eccetera eccetera, capito? Prima lavoro, Anto, prima lavoro, prima assoluto lavoro, poi tutto il resto. Noi siamo a casa, quindi siamo io, come al solito, Gianni, Giulio, entrato Chiodo, Tonino, tarda serata, verso le 7 e un quarto, 7 e mezza, c'era un po' di gente. Non ho sentito Roberto, Rotondo lì, ma già lo vedo domani mattina, poi chi è entrato, boh, non me ne ammetto. Meno male, là. Sono contento. Eh beh, anch'io sono contento, almeno si può parlare tranquilli, tutti sereni, eccetera, eccetera, quando c'è... chi disturba o altre cose non va bene, non ti rilassi, capito? Parli nervoso, quindi non va bene. Lo so. Ho scoperto che ancora ci sono parecchie stazioni in onde medie. Ma ti dirò, già ce n'è, sì, ce n'è. E se mi arriviamo con voce, già. Cioè, cavolo, un bel frequenze ci sono. In quell'area hai tu? Sì, sì. Beh, ti puoi ascoltare anche la radio, non è che io quando avevo la TV con lo sport li ascoltavo dalla radio stessa, capito? Ne accendevo due, con una parlavo, l'altra ascoltavo le partite, mi pare sia 88 o qualcosa. Sì, sì, ho visto, in AM. Allora, in AM. E in FM non c'è. Pensavo di sì, anche in FM. Capa, non... Natica. Vabbè. Come il segnale stasera, buono? Va bene, sempre OK, KK. Io ho 19:40. 40:40 proprio. Proprio sul 40 sono. Prova. Ah, vabbè, il dubbio, beh. Guarda a vedere sul parlato se ci sono picchi di modulazione, se va bene, senza fischiare sul parlato, quant'è il segnale? Sono picchi di 9:40, sì. Io va bene, sta radio è fenomenale veramente, mi sta dando grandi grandi soddisfazioni, come vedi sto usando molto questa. Far andare anche il capo, stasera ho fatto un paio di passaggi, però mi piace più questa, la verità. Capa. Io ce l'ho avuto in passato, però non lo so. Non mi piaceva molto. Vabbè, io forse perché al contrario di te, tu non hai mai avuto quella, io di quelle ne ho avuto 12, quindi. Adesso mi appassiona un po' questi baracchini base che vanno molto bene, ragazzi, qua c'è una ricezione da favola veramente, non ha niente da invidiare all'altra radio, poi esce molto molto bene, sia di radio che di segnale, come vedi, io sto usando il batte della radio, che mi aiuta molto da quando ho sollevato l'antenna, capito? Ho cambiato posizione, ti ricordo. molto più alta, più aperta, prima era bassa bassa perché non è che mi interessava più di tanto. Adesso abbiamo solo questa frequenza, quindi dobbiamo uscire bene. Capa. Questa qui mi sa, quando comincia il tempo bello mi si razza un poco. Ehi, tu, non ti preoccupare. Già ne abbiamo di tubi, quando lo vuoi fare te lo metto. Vengo a darti una mano. Lo facciamo di domani mattina, mandare da Roberto, che dobbiamo fare un po' di manutenzione sul tetto da lui, che lui è stato sempre disponibile con me e lo è ancora. Vado a dare una mano domani mattina appena porto il cane, tanto lui non lavora, e do una mano a lui a sistemare un po' le sue antenne, dobbiamo togliere una, insomma, fare un po' di manutenzione. Quindi, quando vuoi, lo sai, non c'è problema. Tubi io ne ho, Tubi ne ho. Telescopico non molto pesante, anche, già ci arrangiamo, non devi comprare niente. Te li do io i tubi, adesso li abbiamo, mettiamo altri due elementi. E avremo due dirantini minoretti, agganciati da Cellucco e da non andando di Cellucco. Capo, un pochettino di più la voglio sollevare per vedere se spinge, ma penso di sì. Perché non è alta, la verità, non è alta, fa alta 2 metri da me. E boh. Tu, usando quei 2 metri, ne aggiungiamo altri 2 elementi. Sono 2, 4, 6 e se ne va 6 metri l'antenna, è alta mi. A 6 metri sarebbe meglio. A 6 metri la mettiamo. A 6 metri. Usiamo quel tubo come piantone e poi ne infiliamo altre 2 da 2 metri. Destinazione a 6. Allora, se io qua ho fatto un lavoro un po' particolare. Allora, io ho preso, ci ho messo 2 di quelle staffe. Di quelle staffe da ringhiera, capito? Legate a 2 tubi. Cosa ho fatto io? C'ho il tubo grosso, l'altro tubo fine l'ho messo sotto l'antenna, l'ho messo, l'altro tubo più fine, con queste 2 staffe che tengono, capito? L'ho fatta così, poi gli ho fatto nell'antenna, a giubiliardo gli ho fatto un buco, cioè dove c'è il palo, gli ho fatto un buco, gli ho messo un bullone per qualsiasi evenienza, per non uscirne dal palo, capito? Hai fatto bene, è una sorta di piantone l'hai fatto. Già va bene, non c'è problema. Cioè io trovo un tubo anche un pochettino più alto. Cosa faccio? Glielo piazzo sotto, glielo piazzo e sollevo un altro pochino, tanto non voglio sollevare tanto, mi sollevo un altro po' e basta. Ah, ce l'ho io il tubo, non ti preoccupare. Mi devi dare il diametro, si innesta quello lì e si solleva. Già ne ho tubi, quanto ne vuoi, Naccio, Zingatti, ne ho quanti ne vuoi, di tutte le misure. C'ho una sacca piena di tubi, ne ho recuperato pochi. La gente va, devo togliere il dipolo di quello che c'è e quindi lì altri 2 tubi che sono quelli che sono agli angoli della strada che mantengono sospeso il dipolo. Quelli li recupero, ci sono 2 piantoni belli grossi e altri 2 telescopici, capito? Quindi sono 2, 4, 6, un altro tubo da 6 metri telescopico. E il naggio dubbio, io ne ho. E il dipolo non ti conviene tenertelo? No, non tengo più niente, intorno. Cosa ne fai il dipolo? Devo togliere quello e l'antenna bibanda, quella piccolina, e la monobanda VHF. Tolgo tutto, lascio solo la mantova, non c'ho niente intanto da poter... Non mi interessa, faccio solo 27, va bene. Tutto così per fare 2 chiacchiere. C'è quella tua scelta, pensavo che almeno un dipoletto te lo tenevi. No, tu piego i cavi, tiro su tutto, quindi ho la casa in vendita, tanto non hai visto ci sono i cartelli, c'è il mio e quello di un altro del terzo piano, capito? Quindi mi tengo pronto, non voglio avere rotture di scatole e stare qui a perdere tempo. Libero tutto, metto in mansarda, capito? E poi con calma li porterò via in campagna, piano piano. Però voglio pulire tutto. Oh, non vedo mai nulla, mi altro, non c'è nulla, c'è quel di polo e due antenne piccoline, VHF, VHF, basta. La roba grossa ho già tutta tolta. La mantovana è di rada. Tutto di rada. Cioè, nella mantova è l'unica che c'è. Hai di là due antenne, ne di là debo. Se li meno di po' e quelle due VU, perché intanto non ne ho più VU. Basta, lascio solo la mantova, così poi quando dovrò andare via, 10 minuti la mantova è smontata. Libero tutto, tolgo tutti i tubi, le cose, i tiranti, balle e poi va. Tanto anche lasciando tanto posso solo ascoltare con quel di polo, perché non c'ho manco più accordatore, radio con accordatore non ne ho. Ho solo il 140 del 430, andi vuoi andare. Boh. Mi sto per ascoltare, ma ascoltare è comodo, ascolto anche con la mantova, non è un problema quello. Vabbè, certo. Ah, vi ascolti anche con quella, sì. Vabbè, piano piano. Poi magari quando... cioè quando ci avrai l'altra casa in campagna dove è, ti metti, magari ti ripiazzi qualche altra cosa. No, non mi sono piaciuto più niente, la mantova, non mi interessa più niente, va bene così, sto benissimo così. Sì, e ieri ho avuto tre appuntamenti, due di mattina e uno di sera alle 5. Quello alle 5 era abbastanza soddisfatto della casa e tra l'altro è quello che ha l'agenzia di viaggi qua nella piazzetta di Carbonasti, quindi ci conosciamo anche. Ma detto fammi fare un giro, un girettino, ma tranquillo che molto probabilmente prendo questa perché mi costa di meno ed è abbastanza grande per il costo che ha, capito? In questa zona hanno aumentato un bel prezzo, quindi io sto cercando di tenermi più basso di tutti, sondando, capito? E quindi c'ho molti contatti. Ma compare anche chi vive ora, niente che ha già ridinà, se no non compareggi. Niente che veramente ha i soldi e compra. Lo so. Era bloccato per il Covid. L'anno scorso avevo disdetto anche il contratto con la Tecnocasa, adesso l'ho rifatto e come insomma hanno dato queste zone gialle eccetera eccetera, ho rifatto aprire il contratto e sta venendo un po' di gente perché il prezzo è molto interessante, però ti ripeto, inutile che montoneggi, anzi sto cercando di buttare via un sacco di cose. Mansarda ho fatto una pulizia totale, si può giocare a pallone, prima era tutto ammontonato, ho chiamato molto caro, ho buttato via tutto, c'erano mobili ancora dei miei suoceri che avevo portato su, li ho regalati a uno che c'era campagna per la campagna e quelli un po' buoni li ho portati a Portobello, capito? Quindi ho liberato tutto e ho fatto un angolino dove ci ho messo tutti i tubi, la direttiva che è rimasta, quella lì smontata, naturalmente tutto smontato, te l'ho promessa a uno, ma cazzo, non viene mai a pigliarsi, vabbè, alla fine posso mettere l'altro, la taglio tutta appesa e si butto tutto al cosmino. Allora, ma che viene a pigliarsi, cioè... Niente, ma la gente è molto comoda, capito? Le regali la cosa e pensa che la devi portare anche a casa. Cazzo, vieni e te la prendi, cosa vuoi da me? A me non mi interessa niente. Ho detto, cosa c'hai? Un microfono, un baracchino, cosa vai? Non vai nulla da darmi. Io ti sto dando un'antenna perfettamente funzionante. Ti ho pagato 450 euro, quindi... Dammi un baracchino, dammi un microfono, dammi un pezzo di 2BL, dammi qualche cosa, barò. Sì, vengo a prendermela, non sei più inteso. Capa, beh, non vuoi dire un altro se ce la bicca. Vabbè, ho dato la parola a lui, perché siamo sempre lì, quando dice le cose poi sembra che capite. Magari mi chiama fra 2 o 3 mesi, mica sto venendo a prendermi l'antenna, magari è Venia, qui e là, io non le voglio rompere le scatole. Magari mi chiama fra 2 o 3 mesi, mi sto venendo appena, e l'ho già data, bella figura mi fai, la tengo lì, non me ne dà di fastidio, capito? Però una volta che lo dici a uno, io sono di quelli che non è che si tira indietro, se ti do una parola è quella e boh, capito? Non lo so, quando il burro liberato. Quindi se riusciamo ad andare a quella cosa fai? Te ne vai subito in campagna o devi visitare un poco, prendi qualche casa in affitto, devi aspettare un po' per rifarla bene quella là, cosa fai? No, tanto usufruisco dell'altra, capito? Si usufruisce dell'altra come appoggio e poi si finisce quella lì. Ah, l'altra, andi là e l'altra. Prego, è San Francesco. Iga, tu ci mincio di tutto. No, però non sapevi che c'era la casa mia a San Francesco. E sono anche vicino a... sì, un po' a tutti. Però. Già vabbè, come appoggio però. E poi si vedrà. Sì, si piazza l'antenna in Kiwi, no? Che mi arrivi 9,60 minimo. Come io ti arrivo fortissimo. Sono lì, in linea d'aria, è lì, io sono vicino. Praticamente di fronte dove c'è la chiesa, quel palazzo storico dove c'è la chiesa, lì, al terzo piano. Capito? Al terzo piano. C'è anche un terrazzo non molto grande, piccolino per stendere, poi un'antenna può montare, una o due antenne verticali si possono montare, posto per altre cose non ce n'è, però ma la Boibonia è un'antenna provvisoria, quella di Vittoria, perché mi devo andare da lì, non è che capito, non è che mi rimango i chivio. Bellissima quella, sono due mansarde accoppiate, molto molto bella, veramente molto bella, però non c'è posteggio, tu hai il ballo, io c'ho il cane, devo fare scale a piedi, non c'è ascensore, non è cosa per me, come appoggio ti ripeto, uno, due mesi, massimo tre mesi, il tempo di finire le cose che devo fare e poi me ne vado in campagna. Kappa, ma la Mantova ci sta volendo mettendola, sì. A voglia ci sta, è un terrazzo quadrato e boh, sarà 6x6, boh. 7x7, non lo so, comunque ci sta, sì, certo, c'è il muro anche, perché c'è la porta, poi c'è la scala a chiocciola che scende giù, capito? La scala che ce l'è stata tolta, se mi ricordo, il mio cognato aveva fatto fare la scala a giorno, quindi c'è la scala, una rampa con un pianerottolo, è molto bella quella tua casa. Capa, se ti muovi chi, mi arrivi un bel forte, mi arrivi. A fondo scala, giustamente, cioè io lì ci vado a piedi, ci vado, ti puoi immaginare. Guarda, quel palazzo storico, sto proprio come scende la gradinata della chiesa, prima di andare via Casso, capito? Lì è una casa di famiglia, c'erano gli uffici dell'Edra, della casa di riposo di mio cognato. Adesso è libera, se ho quattro bagni, tu hai 200 metri quadri in casa, cosa me ne posso dire? Perciò, come appoggio, momentaneamente, se dovessi vendere più in fretta del previsto, se invece è tutto calcolato, allora non ce n'è problema. Ho 6 mesi, quindi nel contratto ho messo dai 4 ai 6 mesi di tempo per lasciare la casa, capito, una volta che è venduta, quindi in 4 mesi cercherò di fare l'impossibile per andarmene da qua, tutto lì. Capa, qualche domenica o sabato, se vuoi una mano non c'è problema a portare su qualche cosa. Io ti ringrazio, ma queste cose che fa l'agenzia dei trasloghi, appena è tutto ok, chiamo, imballano, portano via, usiamo il bombo, la smontaffa, e a San Gianni Edici. C'è un sacco di amici che fanno questo lavoro, tu. Capite? Lo dico a loro e lo fanno, ma ti ripeto, stiamo parlando di una cosa che potrebbe... spiegarci subito come ci vorrà del tempo. Non lo so. L'ultima che è venuta ieri sera è per la figlia che si deve sposare, quindi mi ha detto che non si deve sposare quest'anno, si deve sposare il prossimo anno, però vogliono già prepararsi la casa, quindi il tempo c'è. Siamo appena a febbraio. Infatti mi ha detto che veniva col marito, perché è venuta la mamma con la figlia, che veniva col marito per darle un'occhiata, insomma, più per vedere se era conforme a quello che diceva lui, e poi niente, tutto qua. Ma ce n'è di questa, ma sai, prima del Covid in quanti venivano? Dunia lì ve n'era uno, Dunia lì ogni santo giorno tu ce n'era uno, coppie, tutti erano interessati, poi andavano in banca e non avevano niente, questi non ne hanno bisogno di chiedere mutuo, questi ultimi che sono venuti, perché è gente che sta bene, me l'ha già detto, noi non abbiamo problemi di liquidità, se la casa ci piace la compriamo, altrimenti no, però mi ha dato buone speranze perché ha detto che è abbastanza accogliente, abbastanza nuova, non c'è da fare, diciamo, nessun lavoro, vuole fare una modifica al bagno e basta, perché questa è stata ristrutturata 7 anni fa la casa. Ma appunto, è un primo che viene curedina in Chivi, è intenzionato, aiuto che andiamo, dare uno stadio da chi ciò che è, veloce, senza neanche perdere tempo. Io infatti, a me, io basta che mi dia i soldi che ho chiesto, poi se non so 4 mesi, ce l'hanno due, ma ci ha menato subito, non ti preoccupare. Già l'invio di subito la gaccia, questa la giù la pila, la svuoto subito, te l'ho detto. Me ne vado via San Francesco che se mi è arredata, porto via qualche mobile da qua, se mi serve, il resto metto tutto in garage, è un garage grande in via Livorno, sempre di mio cognato, qui metto tutto lì, problemi non ce n'è, però ti ripeto, sono cose che stiamo dicendo, bisogna vedere, se è una cosa veloce sono costretto a fare così, se è una cosa che va come per contratto allora non ne ho problemi, capito? Prendo la metà perché una volta fai il compromesso io voglio la metà dei quattrini e con quella metà finisco i lavori che devo fare, faccio i lavori che devo fare e poi mi trasloco direttamente. Sì, posso fare così. Oh, prima esistevano molto, cavolo, prima per la gente che comprava, scoccava le dita, aiuto, fa un gordo, fa un massaggio, aiuto, tutto un fatto. Ma mi sentite di voce, bobo, a che livello che stiamo andando? Per me è facile vendermi. Io con tutto quando ho venduto quello non lo piano, ho comprato qua al secondo, mi hanno chiesto tutta la documentazione, se non sei idoneo non te ne vasi, se la casa non è idonea non te ne vasi atto, il notaio, ci vuole la conformità dell'impianto elettrico, tutte le cose a norma devono essere, altrimenti atto non te ne fa. Solo per quelle carte che ho dovuto preparare mi pare che avevo speso 1200 euro solo per fare tutta quella documentazione lì, perché il certificato in conformità all'impianto elettrico lo deve fare un elettricista professionista iscritto all'albo e ti piglia un sacco di rami, non hai capito? Cosa pensi dello vazia gratis? Lo so Guglia, magari non conoscevi nessuno, no? Per risparmiare un po'. Sì, già me lo sono fatto fare da uno di Proaghe che collaborava anche con noi quando io lavoravo, mi aveva preso, anziché, mi pare, non so se voleva 600 euro, lo faceva, per 600 euro me ne aveva preso 300, la metà, però ci sono tutti gli altri documenti, tu capito, misure catastrali, balle, polvere, di tutto, atto del posto auto, tutte le carte devi fare, altrimenti no, ho tutto lo notaio, per vedere se la casa è ipotecata, se è libera, se c'ha atti giudiziari in corso, tutto, e sono tutti i documenti che paghi. Manco più casi si buone vindì, mamma mia. Sì, sì, ma è così. Meno male ti ha fatto risparmiare, cavolo. Se no, anche 300 euro per la nevorude. Ma poi con le nuove leggi non si scherza anche sul condominio. Se tu sei moroso col condominio, ma te ne hai fatto un notaio, anche preso. Devi anche essere a posto col condominio. Tutte le ricevute, tutte in ordine. Capito? Ti fa la dichiarazione, vuole la dichiarazione del capocondomino, dell'amministratore, non del capocondomino, perché io qua sono capocondomino della mia scala, ad esempio, ma l'amministratore esterno, quello che amministra tutto il complesso, che è enorme, quello deve fare la dichiarazione, deve dichiarare che il tuo appartamento è libero da qualsiasi forma di pignoramento, bim bum ba, in base all'articolo, cazzo, dice questa, ne faccio una cartella piena di mondezza. Tutto, e non devi essere moroso, devi aver pagato tutte le rate regolari, se no non puoi vendere, è un casino. Oh, ma meno male cavolo, ha avuto la voce, ha lavorato, c'è la pensione, tutto, cioè, è a posto. Se no guai, oiuia, come ti va di a pagare tutti i gossi? Vabbè, tanto sono ragazzino lavorando, poi c'è anche mia moglie, no, non c'è problema già, grazie a Dio. Non sono mai mancati i soldi. Aspetta che mando un po' in pensione questa radio, dai, che faccio girare un pochino a 10 minuti, il 140. Via, vai, vai. Ma che mi lasciami, devo giro gommuttare, cambiare sedia. Già, va, già. Scappa. Ma la ventola non l'ha giù mai intesa. Sì, un po'. Quando scalda metti la moto silenziosa, le ventole con le radio sono molto silenziose, anche questa. Metti la testa dove c'è il dissipatore, qui ti hanno bruciato la reci. Ma è buono un gabbo in chiave. Ah, poi l'orecchio sul coperchio, no, sul dissipatore, vicino al dissipatore, già la sento la ventola girando. No, no, non la sentono. Ma vuol dire che ancora non si è accesa? Scappa, boh, oddio, è già calda ma la giurte. Calda, no? Sì, vabbè. Dice, che è ghiacciata. Ghiacciata. Quanti watt sta dando? 10, 15 watt di portante, 50 modulati. Scappa. Mazza di nevaria. A schereggia. Oggi non so. Non so 50, no. Non mi scorre due a me. Ma no, vabbè, questo l'ho acceso da poco, quindi ancora è fredda, ma già sarà anche questo. E poi... Un fischio da 15 a 80. Sì, lo so. Che cose già vanno. Che per me sono baracchini a sintonia continua, so. Sono abituato ad avere radio molto professionale. Questi sono HF, ma per me sono baracchini a sintonia continua. Così dizzini. E io definisco così queste radio. Queste radio le abbiamo, so così. Non sono il top della professionalità, no? Ma sono passati anni, quindi, però che è una possibilità di fare HF, di fare due chiacchiere, e poi vanno bene, ma veramente molto, molto bene. Io mi ero innamorato da subito di questo tipo di radio, e quando l'ho provato alle 27, la prima l'ho comprata nel 1987. Che era proprio il DS430, l'avevo comprata io a Marco 131. Fuori da casa l'attacco, minchia, ma che cosa stai usando? Una radio così, Fescio Maria, guarda, Dunia Radio, dove vai? Via da Sassari, no? Sì, Viale Mameli, da Mario Nottari. Viale Mameli, audio, come si chiamava la ditta? In Viale Mameli, hai visto che c'è il fioraio adesso, all'angolo con via Viale Trento, lì c'è un negozio di elettronica, io non devo fare il radio. Sì, ho capito, ho capito. Sì, sì, sì. No, non esiste più, no, visto. No, lui già esiste, lo vedo anche spesso. Però l'azienda non ce l'ha più, il negozio non ce l'ha più. Ma guarda, mi parlava di comprare l'inchivio, non aveva dubbi. Ho fatto l'amplificatore, mi sono fatto tutta la linea, poi l'avevo fatto il 430. Ho comprato anche il Tiago 922, mi sono una macchina vicina. 5.200.000 lire costate, ho fatto un buon tubo. Non mi farò pensare un po'. Tutti lì andavamo a comprare. Ritirava la roba usata e poi ti vendeva anche il nuovo, capito? E allora non ha fatto di là. Ma pure lui modulava, no? Sì, sì, Mario M2 si chiamava. Magari vai anziano. Cioè, non so che cantarne va, ma... Beh, sai che non lo so neanche io. Più grande di me, più grande di me. Ma non pensare che sia così anziano, anziano. Forse ci avrà, 3-4 anni in più di me, non lo so. 65 ce li ha sicuramente. Forse anche 66, non lo so. Però non lo ricerchiamo. Sicuramente così. Mizzi, raga, 5 milioni con il amplificatore. Se quanto si variava? Guarda, io avevo pagato 5 milioni e 200.000 lire e quando l'ho venduto, e non ti parlo, eravamo già in euro, io l'ho venduto nel 2006, forse 2007, 2008, forse non mi ricordo esattamente, l'ho venduto 2.000 euro, capito? 2.000 euro l'avevo venduto. Ma te l'hai tornato a riprendere o no? No, no, no, così no, così no. Avevo altri tipi di amplificatori. E però quello era il top. Era spettacolare, perché era di linea, era quello che faceva tutto di più. Mi faceva scattare un parole ne ha dato, però già faceva il suo lavoro. La radio capisci che costava poco. 4.30 quando è uscito l'avevo pagato 2.600.000 lire. Vai tu, io c'è qualche poco di neanche c'è sempre. Non lo so, parecchio costava. E ti posso garantire tu che questa radio della Kennedy, queste 140, 80, io le ho avute tutte, i 4.40 e 4.30. Gli anni che hanno ottenuto il prezzo, mi hanno detto, perché se tu consigli che vai a comprare un 440 a 400 euro, stiamo vendendo delle vecchie 800.000 lire, cioè non è buccia di giobbe, quasi un milione, ancora vale. Vale sì, caspita. Capito, hanno ottenuto bene il prezzo, tengono bene il prezzo. Io avevo fatto la linea, quando poi sono passato al 140, quando è uscito, io ho avuto il 120, il TS 120, il TS 130 e il 140 che è questo. Di tutte e tre le radio, io avevo la linea completa, non so quanto era bella. Del 140 era quella più bella perché c'era l'accordatore elettronico, mentre della T120 e della T130 erano manuali, capito? L'accordatore era manuale della radio del TS120 e del TS130, erano manuali. Poi invece della linea del 930, della linea 930, prima del 940, io ho avuto il 920, 930, 940, della linea 930 avevo tutta la linea lo stesso completa con l'accordatore la T230 che l'ho venduto l'anno scorso, no? L'ho venduto l'anno scorso, nel 2020, ed era l'accordatore di linea manuale del TS930, che però io usavo anche con la 940 perché era uguale, capito? L'altezza era uguale. Belle cose da natura. Lo so, erano costosi quegli apparecchi. C'aveva quelli all'epoca, va via tante cose. ma anche adesso che adesso c'è qualcosa in più di un altro. Ma all'epoca valeva un sacco di soldi, erano in pochi che se lo potevano permettere. Tanto non mi sono fatto mancare nulla, io ho iniziato a 16 anni a lavorare e ti invece lì ogni a due anni c'è un babbo macchina. Io quando sono andato a Cagliari a lavorare alla Sara, che ero già grandetto, ero 20, avevo, mi ero appena sposato, mi sono sposato nell'86, quindi fatti il conto, avevo 26 anni. Avevo 26 anni, ero già sposato. A 27 anni avevo nata mia figlia, un anno dopo, ero a Cagliari, alla Saras prendevo 3 milioni, 3 milioni e 2, 3 milioni e 6, dipende dalle ore che facevo, perché la paga globale, capito? Una azienda lì siciliana che faceva la manutenzione alla Saras. Noi stavamo costruendo il depuratore della Saras e da lì io mi sono appassionato tantissimo a quel lavoro e avevo fatto il concorso dove prima sono andato in pensione. Ma di là uffa. Bei tempi. Aspetta, se lavoravi lì, cazzarola. Allora guadagnavi beh proprio. Bene. Ho comprato la casa del nono piano e me la sono pagata in 5 anni, ho fatto il conto perché era cooperativa, quindi ogni mese versavo un sacco di soldi per uscirmene prima, però c'erano, lavorava anche mia moglie, che era attento, mia moglie lavorava all'asilo nido, c'è stata 22 anni, poi sono uscita, basta, mia moglie c'è in pensione lo stesso. Meno contributi ma in pensione lo stesso, quindi stavamo bene, non mi posso lamentare, non mi è mai mancato niente e di radio non ho comprato un bel, ma un buon bel, però oggi non serve a niente spendere soldi per comprare radio, perlomeno intanto io non me lo posso più permettere, su questo non c'è dubbio, perché si vive con molti meno soldi e ci sono molte più spese rispetto a prima e quindi non te lo puoi permettere di fare servizi come si faceva prima, però ti posso dire che sono stato bene, non mi sono mai fatto mancare niente, in tutta la verità, macchina bella, sempre ogni anno la cambiavo, la radio è stata sempre la mia passione, la mia priorità, altrimenti non ne avevo, però le cose si potevano fare, adesso non te cosa vai, cosa vai, cominciati di tirarti, cosa vai? Cosa vai? Ci tira d'anzi, ci tira d'anzi, non puoi fare altro di più. All'epoca già da Cittadinave, ma era tutto diverso in quegli anni, era veramente tutto diverso. Ma infatti te lo sto dicendo, prima certe cose si potevano fare. Io vabbè, scambiavamo anche, c'era un altro tipo di cosa, nel senso che c'era, vai tu cosa c'hai? Questo, ok, mi dammi quella lì, ti do questo, scambiavamo tante cose, si facevano tanti affari, si vendeva anche con più entusiasmo. Valeva la pena, cosa bisogna fare? Ma non sapete. Però ti ripeto, io ho lavorato tantissimo. Immaginate che sono nato con 41 anni di contributi, avevo 58 anni, quindi fate un buon. Perciò, anche se mi hanno un po' preso per il culo, perché sono stato un anno che mi mancavano 52 settimane, non si riusciva a capire dove cazzo erano queste 52 settimane. Alla fine siamo riusciti a tirarmi a piedi, però per dirti, ho lavorato da ragazzino, mi sono preso subito la patente, a 18 anni avevo già la patente della macchina, fatto il conto, avevo la Bianchi comprata da Enrico Confalonieri, quindi è così, si trabacca, uno deve sacrificare la piccola se vuole realizzare qualcosa, perché la grande, vedo mia figlia, non c'è più. più niente per nessuno, caro Antonio. Poi cosa uso con chi da povaretta, si vuole creare un futuro, si vuole lavorare tutto, e poi ci sono queste cose pure, cioè ci sono questi casini, ci sono, ma per carità, dai. Non si sa, veramente, non ho più parole, non ho. Cioè, prima il lavoro c'era per tutti, e mangiavano tutti, e ci stavano tutti bene. Ma se li vuoi mangiare, veramente, il poco che c'è, ce lo vuoi mangiare, gente ladra, puzzinosa. Prima erano meno studiati, erano più intelligenti, i politici. Ma che sono tutti studiati, sono diventati la peggior razza che esiste nella faccia della terra. Ci conferma, mi non è di riapre l'aria. Speriamo bene che lo lasciano lavorare. Ma dove dici? Meno recuperare i soldi persi. Se non arrivi da manco uscito ancora, cazzo. Manco uscito arrivi da ancora. Né di cassa integrazione, né di rimborso ristoro. Ma va alla grecuria al capo. Capito? Quindi dove vuoi andare? Quello che noi abbiamo fatto da giovani, oggi i giovani se lo scordano, non si può più fare. Due cose solo bisognato, non nasci ricco, capito? O vai a rubare per campare, perché quello che si riesce a fare è proprio per sopravvivere. Cioè, ma come ti si fa da danze? Cioè, se ci sono mille magnacci che mangiano, cioè, com'è? Cioè, se tu mangi e non dai nulla alle persone, come cavolo fai a tirare avanti? Purtroppo il governo italiano è così. Ti taglio le gambe da una parte e te le riparo dall'altra. Ma cosa per il culo migliaia e migliaia di italiani, capito? Come si fa a dire in 15 giorni verranno erogati i rimborsi e ristoro tramite l'ufficio delle entrate, in 15 giorni andranno pagate le casse integrazioni. Meglio è 3 mesi e si tiene la casse integrazione, il rimborso e ristoro, di cosa si può fare i denti? La buona paga che c'è tutto quanto il taburotto, mamma mia! Ui! Muove! Ma perché non si ammazzano tutti i canti che sono la vergogna del paese? Sono, se ne cavano i rocci e nessuno fa di nulla. C'era lavoro un po' prima, c'era lavoro, capito? C'era lavoro. Prima di cadere nella trappola di Mani Pulite, quando si è dimesso Di Pietro, Bottino Craxi è fuggito in Tunisia, il lavoro c'era perché c'era anche il nero, si lavorava molto il nero, capito? Io terminavo alle 2 di lavorare, 2:30, e dalle 4 fino alle 8 lavoravo dall'altra parte, poi il nero, si poteva fare, adesso non si può più fare, non ti prende più nessuno, è tutto un casino, capito? Sì, perché prima c'era, cioè praticamente mangiavo io e mangiavi tu, ma invece non è più così, mangio io e non mangi più tu, il problema è questo. Craxi non ne va a tappeto tutto quello che voleva, ma tu il tuo casino non vera quando vera chi sa niente, o sbaglio Craxi? No, non sbagli, no Antonio, non sbagli, ma è la realtà, capito? Io lo sai, ho 61 anni, ho iniziato a lavorare da piccolo, e ti ripeto, io mi facevo il culo la mattina e la sera, perché mi piaceva avere i soldi in tasca, ma come tutti i giovani di allora, capito? E ci avevi la moto, avevi la macchina, il sabato e la domenica, ad esempio, di giostra, però io rientravo anche alle 2 o 3 di notte, mi ricordo, 17enne, 18enne, con mamma in casa Danieda, e alle 7 del mattino mi stavo, alle 7 del mattino c'è un cantiere ancora. Adesso non succede più, ma io l'ho visto da ex colleghi miei giovani, che infatti io mi incazzavo, ma non è possibile che tu ogni lunedì non devi venire a lavorare, spiegami perché, me lo diceva, cazzo capisci almeno tu, siamo rientrati alle 5 stamattina, eravamo in giro, a destra, a sinistra, non ce la facevo, volevo fare. attacchi la domenica, ma non esiste, ma non esisteva neanche prima, mi antò. Noi stavamo in giro, ci bevevamo, però io, oh, ridresciamo mica, come una mattina mi diceva, a risico, due ore giù me, mi sdraiamo nel letto vestito me, a risico in piedi, doccia fredda, e svamo sulla praia, fanno va. Così bisogna fare. Ma allora c'era più rispetto, c'era. Vera più tutto, vera. Ma fa carità. Gente insignificante, sta sempre più nascendo gente insignificante. Non è che è travagliato, no. No, veramente incredibile. Gente che non vuole fare niente. Aspetta. Cosa? Aspetta un secondo che mi ha chiamato mia moglie. Ehi, bianco un attimino, pure per me, che vado giù al bagno. Ehi, vai. Ehi, ci sei? Sì, Anto, sono qua. Mi sono ritornato, ero giù nel bagno. Sì, va bene. Stavo parlando. Dopo i maribagatori, vedani, per carità, che categoria brutta. Cosa tu? Ha giunto che da voi c'è cominciato di maribagatori, buro. Cioè, ti devo tenere a pagare, non ti bagavano. C'era giro di denaro, quindi c'era anche chi ne approfittava. Io non ho mai avuto tanti problemi perché ho sempre lavorato, in grosse aziende. La verità, non mi posso lamentare, mai bruciato, mai più mai. E poi ti ripeto, andavo anche a lavorare in nero, perciò mi pagavano subito. A fine giornata, cash, e quindi servivano per divertirci. E poi per lo stipendio era a mettere da parte e a toglierti qualche sfizio più pesante, tutto lì. Però ti ripeto, c'era più lavoro, c'era più serietà. È tutto un mutinaccio, lascia perdere. Adesso chi ti fa che prima, tu ho capito? L'hanno rovinata i grandi intelligenti, grandi intellettuali intelligenti, quelli hanno rovinato il lavoro. Si di Pietro si aveva fatto rifatti giù invece di fare il pulmone pulite. Vedevi che si continuava a lavorare come stava lavorando. C'era un bel lavoro a me quando era presidente Bettino Craxi. Ma non vuoi venire a me. Era un bel idroiame in burro, nel senso che c'erano un bei ladri, un magna totale, però c'era un bel lavoro, capito? Io politico, dicevo, sistemi Antonio, cosa fare? Nulla, e vabbè, ma andavo lo stesso. E che ti cubano in mezzo e stavo lavorando, in grosse aziende mi. Fallo adesso, come? No, ti posso assumere, perché l'età tua è già qui e là, non sei specializzato, non sei qui, non sei là, ti devo assumere, devo pagare i contributi, ma ti cubano in mezzo, tutto in nero. In tutte le aziende, quanti erano? 50 operai, 25 erano sicurati e 25 erano tutti in nero. E lavoravano, e guadagnavano soldi e facevano risparmiare anche l'azienda. Così doveva essere. Così doveva essere. Invece si può in mezzo chiesto, ma fosse da capo per la brutta. Così è. Così è, caro mio.